Allora, buongiorno, benvenuti a questo secondo tavolo che si intitola Informazione dopata, il ruolo dell'informazione nella creazione dello stigma e dell'insicurezza. I nostri ospiti sono Anna Pizzo, giornalista di carta, e Luca Cardinalini, giornalista anche lui e autore del libro Impiccati. In questo tavolo cercheremo di capire quali sono gli stigma ricorrenti nel linguaggio mediatico e quali sono le forme di devianza che poi questi stigma vanno a caratterizzare. Soprattutto però cercheremo di capire attraverso quali dinamiche poi i media vadano ad utilizzare tali segni in maniera iperbolica, spesso purtroppo con conseguenze tragiche, come ci dimostra anche il caso di Alberto Mercuriali, di cui oggi avremmo dovuto ospitare il comitato. Non so, vi racconto la storia a grandi linee. Alberto è un ragazzo 28enne di Castrocaro Terme, per cui un paesino in provincia di Forlì, che venne trovato con una quantità a quanto pare modica di hashish. 4-5 giorni dopo il suo arresto, sui giornali locali uscì un articolo dettagliato che, immaginate un paesino di 5-10.000 persone, addirittura una frazione di Castrocaro Terme, immaginatevi comunque. Alberto si riconobbe facilmente in questo articolo, così lo riconobbero i suoi amici, come ci dice la testimonianza appunto che ci hanno inviato il comitato Amici di Alberto. In quella giornata Alberto venne tempestato di telefonate dagli amici, insomma, fatto sta che non riuscì a reggere evidentemente la tensione di questo pubblico ludibrio, e il giorno seguente, siamo a luglio del 2007, si suicidò con i gas di scarico. Quindi ci occuperemo anche delle conseguenze tragiche che questa informazione dopata può provocare, e ci chiederemo ancora in quale maniera questa sorta di postmoderno modello ipodermico funzioni, come l'individuazione di questi stigma, per cui di questi segni, siano congeniali poi in fondo alla creazione di un'insicurezza prima e di una sicurezza poi altrettanto posticcia anche questa, come dimostra fra l'altro il rapporto uscito qualche giorno fa di Giovanardi, dove si millantano cifre incredibili su una riduzione del 25% dei tossicodipendenti in Italia a causa della crisi addirittura, e ovviamente per merito del nostro buon governo. Infine cercheremo anche di comprendere chi siano poi i beneficiari, sia politici che economici, di questa stigmatizzazione, di questa identificazione di tipi e di isolamento di questi soggetti, e quindi appunto quale sia il ruolo della stampa in fondo nel mantenimento del potere. Volevo dare subito la parola ad Anna Pizzo. Buongiorno, allora mi presento, permettetemi di presentarmi in più vesti, perché poi nel ragionamento mi serve per farmi capire. La prima naturalmente è di redattrice di questo settimanale, che non per caso è nato come settimanale soltanto 2 mesi prima di Genova 2001, il G8, e perché noi allora intuimmo, ma non era difficile allora intuirlo, che a Genova ci sarebbero state delle questioni molto importanti sulle quali una informazione, diciamo, del nostro tipo, orizzontale, dal basso, sarebbe stata molto utile, e questa è la ragione per la quale da mensile passammo a settimanale. La seconda veste nella quale mi presento è di una che ha appena smesso di fare la consigliera regionale per 5 anni alla Regione Lazio, e mi serve questo perché nella mia qualità di consigliera sono potuta entrare in tutte le carceri del Lazio senza permessi, e questo mi è stato molto utile per capire molto di più di quanto non la si racconti com'è la situazione dentro le carceri. La terza veste, ma questo lo dico in modo un po' provocatorio, potrebbe essere quella di una futura abitatrice delle carceri, perché anche io sono attualmente, diciamo, sottoposta ad un procedimento penale perché nella mia qualità di consigliera regionale mi sono fatta accompagnare dentro le carceri da persone, diciamo così, tra virgolette non autorizzate, e in particolare dalle mamme di due detenuti, e per questo è stato aperto un procedimento per falso, per una certa serie di cose nei miei confronti, ma adesso tenterò di spiegare perché queste cose sono collegate fra loro e perché alla fine, diciamo così, il mio atto di nascita, la mia vera, diciamo, come dire, carta d'identità, che sarebbe quella di giornalista di questo tipo qui, del tipo che io sono capace a fare, cioè del tipo per cui l'informazione non è quella cosa per cui né, come dicevi te prima, legata ai poteri, ma neanche, diciamo così, quella che un tempo si sarebbe chiamata solo la controinformazione. Io credo che il ruolo che, per esempio a Genova, ma anche in altre occasioni, l'informazione del nostro tipo, quella sociale, quella legata alle reti sociali, quella legata ai movimenti, eccetera, è in grado di produrre, non è un binario parallelo, diciamo, e di serie B, ma invece un binario molto importante, molto, diciamo così, e ha avuto un ruolo così importante, così, come dire, decisivo, così dirompente anche in alcune grosse questioni, diciamo, che hanno avuto anche a che fare con la giustizia. Cito per tutte Genova, ma posso citare anche Cucchi, per le quali io ritengo che questo ruolo sia strategicamente decisivo, anche se naturalmente il mercato e il governo che ci taglia la legge e tutto il resto ci stanno violentemente, diciamo, minacciando, nonché praticamente strangolando. Allora, qual è il punto? Il punto è che, appunto, nati 10 anni fa in quel modo che vi ho detto, cioè con una intuizione facile per quei tempi, e che, cioè che Genova sarebbe stata una chiave di volta per tutti noi, per i movimenti, per la società civile, eccetera. Puntualmente noi a Genova abbiamo ricoperto un ruolo molto importante. Io ero la, diciamo, responsabile del centro media, buonanima, di Genova, con tutto quello che questo ha comportato, nonché il fatto che sono stata chiamata come, diciamo, testimone ben informata dei fatti, sia al processo di Cosenza che a quello di Genova, naturalmente, perché dovevo raccontare esattamente che cosa era successo lì e come, per esempio, e questo lo racconto sempre, ma perdonate, ma è proprio il livello minimo, come per esempio il giorno in cui mi consegnarono le chiavi della famosa scuola sulla quale poi successe la Diaz, insomma, su cui successe tutto il casino, con il delegato del presidente della provincia, con tutte queste altre persone così. E entrammo e c'erano dei lavori dentro questa scuola, perché si stavano facendo dei lavori, e allora c'erano tutti gli attrezzi che servono per i lavori, tra cui anche delle mazze e delle altre cose. Io, per fare la spiritosa, dissi al delegato, appunto,